America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. At this point we don't see any specific credible threat either going towards the holiday season or New York in particular. John Miller, responsabile antiterrorismo della polizia a New York, in qualche modo cerca di minimizzare sul rischio terrorismo in città e in America anche. In realtà dice che dopo l'attacco di Berlino a New York sono state intensificate naturalmente le misure di sicurezza, però non c'è un rischio terrorismo dalle nostre parti nel periodo natalizio, nonostante l'allerta resti molto alta. Ecco, questa è la reazione, ma devo dirvi che per strada comunque si vedono misure di sicurezza sicuramente più elevate. Passiamo rapidamente alla politica. She prevailed against it all, but you know, then at the end we had the Russians and the FBI deal, which she couldn't prevail against that. Ecco, questa è una dichiarazione polemica di Bill Clinton dopo il voto che ha confermato, come vi dicevo ieri, Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. L'ex presidente americano dice: dice, non potevamo vincere contro l'FBI, non potevamo vincere contro i russi, però Hillary ha fatto lo stesso il possibile e ha vinto una maggioranza di 2,8 milioni di voti. Come dire, la nostra convinzione che la presidenza Trump sia delegittimata resta. Ecco, secondo me questa è un po' una caduta di stile, le elezioni sono finite, ha vinto Trump, dunque questo va riconosciuto anche dall'ex presidente americano, certo molta amarezza per lui sicuramente, ma questo non giustifica un messaggio di divisione. Qualcomm is buying NXP Semiconductors, creating a company that'll have revenue of more than 30 billion. Avete sentito questo annuncio? Abbiamo parlato qualche settimana fa di questa operazione di acquisto della Qualcomm che aveva offerto ben 47 miliardi di dollari per l'acquisto della NXP. Questa operazione faceva parte di un certo numero di altre operazioni di fusione e acquisizione. C'era la AT&T, per esempio, che voleva acquistare Time Warner e così via, così via. Ecco, perché vi parlo di Qualcomm? Perché torno su questa operazione? Perché uno dei due cofondatori di questa azienda, che è un'azienda chiave per la telefonia cellulare, poi vedremo il perché, è un italiano, che però è scappato dall'Italia negli anni 30 per via delle persecuzioni razziali. Andrew Viterbi. Andrew Viterbi vive a San Diego in California, ma è venuto a New York per presentare il suo libro di memorie, riflessioni di un educatore, di un ricercatore, di un imprenditore all'Istituto Italiano di Cultura qua a New York. E visto che ci stiamo avvicinando al Natale e che, come dire, io cerco di farvi, a parte le storie politiche che sono un must, ma anche di raccontarvi delle belle storie che possano essere di ispirazione, delle storie positive, delle storie da sogno americano, ho con me ai microfoni di America 24 proprio Andrew Viterbi. Buongiorno, professor Viterbi. Buongiorno. Lei ha una storia straordinaria perché, ci sono le persecuzioni razziali in Italia nel 1938. Suo padre riesce a trovare il modo per lasciare l'Italia e scappare negli Stati Uniti d'America. E dopodiché lei fa il suo percorso, studia a Boston, poi approda all'MIT, poi va in California e in quel periodo lei a un certo punto si inventa un teorema, un algoritmo, l'algoritmo di Viterbi. Ecco, qual è la peculiarità di questo algoritmo? Perché qui, cari ascoltatori, avrete una bella sorpresa. Lo scopo principale era di correggere gli errori delle trasmissioni digitali via voce, via anche dati. E questo siamo riusciti a farlo in un modo che era utile inizialmente per le comunicazioni spaziali o via satellite. Dopo di ciò abbiamo trovato che c'era un'applicazione anche per i telefoni cellulari e quindi nella cosiddetta terza generazione, quarta generazione, 3G and 4G, siamo riusciti a ottenere la maggioranza del mercato e quindi direi che circa 4-5 miliardi di telefoni digitali hanno il circuito di Qualcomm. Voglio ripetere, perché è questo l'evento straordinario. Voi tutti usate il telefonino, vi sembra la cosa più normale di questo mondo, magari qualcuno di voi adesso è in macchina e sta usando il telefonino, ebbene quel telefonino funziona perché, risalendo a questo algoritmo che ha sviluppato Andrea Viterbi, adesso Andrew Viterbi, è possibile comunicare minimizzando i margini di errori fra diversi apparecchi di telefonia cellulare. E quindi questo chip che ha creato Andrew Viterbi quando ha lanciato nel 1989 la Qualcomm con il suo partner ed amico Irving Jacob, ecco, ha di fatto creato la base, le fondamenta per la telefonia cellulare. Ecco, nel suo libro di memorie pubblicato dal Centro Primo Levi, dalle edizioni Centro Primo Levi qui a New York, lei ripercorre la sua vita, partendo anche proprio dai momenti più difficili. Cosa ricorda delle persecuzioni razziali in Italia, delle leggi razziali, delle difficoltà da cui siete partiti? Ricordo il patema d'animo di mio padre e di mia madre. Mio padre, che era da 33 anni a Bergamo, era primario di oftalmologia all'ospedale principale, che si è trovato tutto d'un colpo fuori sulla strada e scartato da molti amici, non tutti, ma la maggioranza del popolo, non solo a Bergamo ma di tutta l'Italia, si è voltata via. Quindi poi a un certo punto siete scappati, lei mi raccontava, attraverso la Svizzera, poi la Francia, poi siete partiti. Come si chiamava il transatlantico con cui siete partiti? Che cosa è stata questa avventura della partenza e l'arrivo in America? Siamo partiti sul De Grasse il 15 d'agosto del 39, arrivando a New York il 27. E l'arrivo a New York? Lei ricorda qualcosa? Mi ricordo la Statua della Libertà, ma mi ricordo ancora di più il fatto che dovevamo ancora passare l'esame medico. Molti erano scartati per infezione del tracoma, e mio padre oculista era esperto del tracoma. Malgrado quello, potevamo essere scartati da un medico che non aveva molta esperienza. Poi la visita è andata invece bene. Siamo riusciti, la visita è andata benissimo, siamo arrivati alla Pier di New York e lì c'era mio cugino Alberto Finzi ad aspettarci. Beh, insomma, la sua è una classica storia, un immigrato in fuga che arriva in America e scopre fra mille difficoltà il sogno americano. Lei crede che esista ancora questo sogno? Si può credere che la mia storia si potrebbe ripetere oggi? Certo. Per caso tutti gli asiatici, indiani e cinesi che sono arrivati negli ultimi due decenni dimostrano che questa possibilità continua. Quindi è ancora una nazione di sviluppo, malgrado che adesso siamo in una condizione politica inverosimile. Non avrei mai creduto nei 75 anni che sono in America che si poteva arrivare a questo punto. Ma io ho grande fiducia nel sistema e nella Costituzione. Alla fine credo che supereremo anche questo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, sempre in spirito natalizio. Questa è la settimana di Natale. Siamo in percorso di avvicinamento e dunque vi propongo di Brenda Lee, Rocking Around the Christmas Tree. Classico del Natale americano. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear bows of party rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Bows of party rocking. holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.